This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Ciao Rostagno! Ciao Patrizio! Ciao Rostagno! Dove ti trovi adesso? Prima non sentivo bene la linea. Al set del casilino! Sì, ogni volta che fate casello noi guadagniamo qualche cosino. Ah, ma te la ricordi la storia, eh? Anche tu te la ricordi quella storia lì? Sì, ci sono passato uno tra i primi a dover montare e smontare i caselli autostradali. Ma dimmi Rostagno, compagno Palmiro Toglianti. E ti trovi col compagno Palmiro? No, ce la sua salva che ogni tanto la montisco di Rossettini, si ripiglia e dice le grandi frasi, però è ormai troppo decrepito, anche da morto. Notte, by night, Palmiro Togliatti. Naturalmente, by night come sempre. Ma ti piace il cantante Nerez? L'ho intervistato qualche puntata fa. Sì, ti devo essere sincero, è una persona, a parte che è un amico, è una persona molto intraprendente. Quindi ha delle dinamiche, lui fa un tipo di musica che si chiama Cheese House. Proprio che riguarda i derivati del formaggio, cioè che prende spunto dalla freschezza dei latticini. Quindi sarà un amante di Tom & Jerry, Nerez. Anche, sì. Questo è così fortunato. Comunque, volevo chiederti una cosa. Io ti sento molto pimpante, molto anzillo. Come ti stanno trattando lì al set? Ma bene, mi imbottiscono di tutto il più possibile, io mi accontento, mi sta bene, piuttosto che andare a chiedere al Sossone e lui gli spacciatori di mezzo la strada. Certo, ricordiamo che il compagno Rostagno è palermitano, come un altro nostro amico che avremo in linea, Alessandro Alex Resonance DJ. Parliamo un po' della situazione di Palermo, perché i nostri ascoltatori mediamente captano l'area urbana dell'Emilia Romagna. Parliamo un attimo della situazione di Palermo. Palermo è una barca che sta navigando su alte maree, però ogni tanto c'è la luna che le fa passare. Questo è Palermo per ora. Chiaro. Sì. Però ci sono delle onde grandi che conquisteranno molti paesi. Sì. È così grande Palermo in questo momento che può raggiungere pure la luna con un dito, solo che la gente è educata qua, capisci? Certo. E razionalmente certe volte sbaglia le sue cose, però mantiene sempre un giacca e cravatta e panciotto, perché così ci vuoi fare. Il palermitano è sterilizzato da quando è nato il fascismo e se sterilita la mantiene in città. Certo. Guarda, per chi non se lo ricorda, è stato nostro ospite Rostagno in una puntata qua a Baby Radio. Trasmettiamo sempre dalle frequenze 106.G, le frequenze free di Baby Radio. E niente, abbiamo questo grande strumento di comunicazione che è diventato internet. A me sembra veramente strano. Non ti sembra strano di parlare tramite un computer, Rostagno? Non è fenomenale, non potrebbe essere anche questa una nuova tecnologia aliena? Una forma di controllo? No, vabbè, il controllo in un altro modo, il controllo è ancora peggio. Tu dove ti appoggi di te, per esempio negli autogrill, se tu ti appoggi nei cessi, se ci fai caso, puliti o sporchi che siano, lasci sempre l'impronta della mano nella mattonella dove ti appoggi la mano. Sì, è vero. Ci hai fatto mai caso? Sì, assolutamente, è vero. E così controllano subito. Sì. Neanche te ne accorgi di quello che può succedere. Il controllo alieno è una fisseria. Il controllo vero è quello che stanno adoperando per la prima volta in Italia. Infatti ti annunciavo questo fatto del movimento dell'ISIS, che si sta subliminando per ora nella sua forma, perché i mafiosi negli anni 50 strutturarono la loro potenza di spaccio internazionale, così uscendo da Guantanamo molto semplicemente, mettendosi gli ordini, i bigliettini dei grandi capi boss, per cui c'erano anche i Vina, i Vigio, diciamo di quell'epoca loro c'erano i loro padri, che sono stati i padri asportatori del carcere. E quelli di Guantanamo di adesso sono degli organizzatori di RIF, burocratiche, quindi al massimo della violenza, che aspicano a ancora avere più violenza o ancora più democrazia islamica, perché infatti se tu ci fai caso lo Stato islamico è subito stato prontamente annunciato appena è nato il governo, a 100 km da Tripoli, dove per 20 anni praticamente, perché sono 20 anni di politica internazionale, se tu ci pensi ci sono andati i migliori scienziati della politica internazionale, c'è da dire che non hanno concluso un cazzo a formare un governo. Certo. Quindi la storia è sempre lì, è banale, ma il petrolio, che è quello che amministra questa epoca per gli occhi realmente visibili nella società. Poi se tu vuoi nascondere qualche cosa la puoi nascondere, ma vuoi. Certo. Ascolta, Rostagno, ci sono i nostri amici, i nostri ascoltatori, compagni di Baby Radio, che si chiedevano che fine avesse fatto, perché noi abbiamo ripreso la programmazione adesso che l'estate sta finendo e l'autunno si avvicina, e i nostri ascoltatori si chiedevano che fine avesse fatto Ciccarelli. Ho saputo che è rimasto, non si fidava del trago ed è dovuta intervenire la Farnesina. Se mi puoi delucidare un attimo. Non hai sentito male, però sai, è una Farnesina molto semplice perché è privatissima, i costi sono elevatissimi, quindi lui si è andato a Medjugorje per farsi un suo santuario, perché lui è un grande trascendentale dello spirito. Sì. Ma non per pregare di salvarsi, ma per pregare di dimostrare che lui è una parte di questo drago. Ed è a Medjugorje, al ritiro spirituale, che sta pregando la Madonna puttana, che ci allunga abbastanza bene il viticchio, come si dice da noi, no, ma tutto bene. Mi hanno detto che lui non si fidava del drago e qualcuno... Ma faceva bene non fidarsi del drago, perché devi sapere che il drago siciliano comincia a Sant'Elia e finisce a Corso Corbero. Corso Corbero è un paese che si trova nelle montagne della Madonia a qualche 2000 metri. Sì. Sant'Elia si trova a altezza latitudine mare. Quindi la strada è tutta in discesa, tutta in salita. Tu affronteresti una tale salita e discesa senza rame e nessun po' di bene? No, io onestamente no, io sono abbastanza codardo da questo punto di vista. Se poi te lo passo, solo che stava... E lì con te. Dai, facciamo questo intervento, questa tavola rotonda anche con Ciccarelli. Aspetta, te lo chiamo. Grazie, Rostagno. No. Baby Sei tu, compagno Ciccarelli. Uomo 2. Uomo 2, spacqua, motherfucker. Compa, è intento che benissimo, loro hanno due antenne come occhi, però mangiano. Sì, che non me ne fanno un cazzo, c'è la disgrazia, famiglia, porca puttana. Che disgrazia, dimmi cosa sta succedendo, ti stanno facendo del male, a sé. Stanno fanno vedere le partite della Juventus, porca puttana. Cosa vogliamo fare con le partite? Dimmi Ciccarelli, per favore. Sei un merda, sei un coglione testa mia. Ma chi è che ti ha dato una... Mi hanno detto che ti hanno dato una settimana. Decadente, infatti sto cercando di recuperarlo con un bell'amo agganciato a una bella preda. Sì. Se non può scappare la cappa, se no. Però secondo te fra fratelli di sangue. Gli scappellamenti insieme sono belli, no? Sì, assolutamente. Sono stupendi. Vabbè, ma non è che potrebbe. Se no, ma tu mi dici sì. Non potrebbe accadere una situazione, visto che tu sei un esperto di politica italiana estera, non potrebbe accadere una situazione per Ciccarelli come quella dei Marò? Cazzo di fraco, mi sta portando a Medjugorje, porca puttana! No, è più drammatica. La Farnesina dovrebbe fare cazzo qualcosa, Rostagno. Purtroppo il problema sai quale rientra nei servizi militari segreti americani questa trattativa. Quindi il problema della Farnesina di Alessandro era comportato così. Ciccarelli, ma cos'ha? Sto parlando con un generale in questo momento e no, infatti sta passando il battaglione. Adesso, guarda, sono tutti appellabili a lui perché è un ago importante nella bilancia, troppo importante la cosa. Dobbiamo appellarci al quinto emendamento. Guarda, io ho avuto una situazione simile quest'inverno a causa del caldo anomalo. Non vorrei che. Può essere che gli alzer del casino. Una vampata di caldo anomalo. Comunque, Rostagno, continuiamo appunto questo discorso. Mi interessava sapere, proprio perché sei un esperto. Che non ci dare questo cazzo di tratto? Ciccarelli. Se n'è andato. Possiamo parlare tranquilli. Non ti piace vincere facile? Allora prova a vincere difficile. The Snake. Via dei ragazzi dell'Edda 14. Qua ci sono video slot, lotteria, bingo, ricchi premi e cotillone. Qua non ti puoi sbagliare, perché non si vince manco un cazzo. Però ti assicuro che se ci lasci soli, non ti fastidiamo più. Via della Grazia 3014, The Snacker, di tutto lotte e grossi premi cottiglioni, non mancare. Mamma, hai visto la pubblicità? Bene, il nuovo Nokia. Mamma, lo voglio. Andrò sull'aria spaziale, lo voglio. Mamma, il Nokia nuovo. Piace? Baby Radio. Once you go baby, you never go back. Baby. Rostagno, ma cosa ne pensi di questo connubio tra gli spaccini islamici e i reptilian? Se c'è un connubio. E caschi nell'asino che vola, praticamente. Il connubio, ti devo dire, c'è. Se si vede che tu usi le stesse cose che uso io, meriti, rifletti bene. C'è un connubio bello poi alla fine, ma dove lo puoi andare a vivere nei paesi del nord facilmente, dell'ultra nord, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, perché questi spaccini poi vanno a vivere nei boschi, perché sono alieni, appunto. Spacciatore, portami via, porta la roba del spacciatore. Sebastiano Serlio, dove ci facciamo qui? Lo spacciatore, e se io muoio, è colpa dell'overdose, lo spacciatore, portami via, fammi spaccare. Cioè si ritirano lì. Gli italiani hanno avuto un accordo nell'85 con le forme terrestri di potere, di spaccio, di chimica, di tutto quello che riguarda potere industriale, economico, positivo. Praticamente si è legata a questi allacciamenti per raggiungere una forma di extrapolarità spirituale per la sua razza, per odiarci di più. Odiandoci di più, perché noi uccidevamo secondo loro all'inizio, è stato un approccio sbagliato, indiretto, e loro sanno fare solo diretto e indiretto. Quindi poi hanno fatto in maniera indiretta una cosa diretta che non era vera nella loro razza, e allora quindi hanno aumentato le loro ricerche cercando di interpretare. Ma sono controllatissime queste cose. I Men in Black, per esempio, non so, tu hai accennato qualcosa, ma ti posso assicurare che vanno a caccia liberamente anche di persone, principalmente. I Men in Black sono i pericolosi, perché vanno a caccia di persone che hanno avuto contatti alieni e sono naturalmente, per esempio, seguiti da uno psicologo che gli dice che gli crede. Tu devi pensare, in ogni cosa c'è sempre un doppio della medaglia, perché chi ci sarà che guadagna tutto questo quanto sui Men in Black e sulla persona che stava, quello che ha il potere farmacologico e ha il potere dello spionaggio internazionale. Giusto appunto, Rostagno, volevo proprio introdurti nell'argomento, ma hai spezzato questa lancia a mio favore. C'è. Sul rapporto alieni e farmaci. Alieni e farmaci, nel senso, innanzitutto volevo, è una domanda che molti radioascoltatori si sono fatti quando ti hanno, appunto, hanno sentito la tua puntata, cioè come tu ti sei avvicinato? Sì, allora sono specifico, è fortunata, ma è normale, dopo mi stai chiedendo quello che vuol dire il confronto fra l'alieno e il farmaco. Allora, negli anni 80... Andiamo a spiegarlo! Negli anni 80 ci fu veramente un quantitativo di incontri ravvicinati, incontabile praticamente, ma non dai militari, principalmente da fonti terrestri comuni, da civili, e quindi certe forze aliene erano in accordo con i governi che conoscevano la razza terrestre nelle sue. Per esempio, a noi l'idea di dover prendere i farmaci sopra nello spazio per alimentarci ce l'hanno dato gli alieni, per tutti noi e non allenati. Io non ti parlo dei farmaci che pigliano quelli allenati. Quando un giorno andremo nello spazio, noi per mangiare abbiamo bisogno di pillole tipo quelle che io ingurgito mattina e sera, anzi sera solo ora. e l'hashish e compagna. Però questo è il discorso. Allora ci sono delle razioni che hanno conosciuto per esempio i farmaci e hanno anticipato perché avevano alcuni organi simili ai nostri. Sì, tipo. E ce l'hanno. Poteva essere nell'esperimento di questa cosa lo stomaco, okay. L'intestino. Vabbè, giustamente. Merda, dove cazzo è la mia olanzapina, pezzi di merda, ma nascosto, pezzi di merda, non Cicarelli! Cicarelli! Ah, sei innamorato della nostra società. Cicarelli! Ti basta Cicarelli, pezzi di merda, mi hanno nascosto l'olanzapina, figli di puttana. Cicarelli, ma... Ma, mi danno dei cazzo di semi. Cicarelli! Mi hanno detto che sei stato a Spalato. Hai fatto buone vacanze. Merda. Mi hanno detto che ti hanno provato, però purtroppo ho avuto questa soffiata che ti hanno provato a fregare. E ti hanno portato a Froggy Land. E ti hanno dato una rana balsamata per della roba. Sì, ti ho leccato con le cazzo di rane di Froggy Land a Split. Pezzi di merda mi hanno impaccato. Non trovo la mia cazzo di olanzapina. Pezzi di merda. Cicarelli, non ti fidare del drago. Fida di questo cazzo di drago. Potete chiamare chi cazzo volete, la Farnesina, la puttana Madonna. Mi frega un cazzo di non scendere da questo maledetto drago, pezzi di merda. È caduta la linea con Cicarelli. Tu come pensi che cadrà Cicarelli? Dritto o sdraiato? Secondo me è sempre dritto. Ma anche secondo me. Agenzia Viaggi il Ketodol, in via Beroaldo 15. Se il tuo sogno è andare a Goa con tua moglie, noi te lo facciamo diventare realtà. Ketodol. Col testosterone ti proponiamo viaggi fantastici a partire da 15,99 €. Il prenotamento sarà in una fatiscente località indiana, dove però puoi ascoltare la musica che piace a te, la Goa, la Full On. Ci sarà anche Pietro che ti accompagnerà e ti delizierà con le sue stronzate. Stagno, e continuando il nostro discorso, l'estate appunto finisce, ci abbandona in questi ultimi 10 giorni, dimmi qualche progetto che hai per il futuro più immediato. Cosa andrai a fare? Che cosa proverai a fare? Un attimo, anche per. Tu sei a conoscenza della costruzione del nostro nuovo pianeta Kendall, vero? No, ma io di queste cose non ne tratto, perché io uso solo hashish e olanzapina. In questo momento di queste cose non ne tratto. E aspetto soltanto un richiamo da qualche giungla foresta nera per qualche volontariato. E spero che sono pure attrezzate bene. E adesso sono andato a contatto con dei ragazzi che hanno un pochettino di asini sulle orecchie, perché gli hanno fatto credere che le pillole che pigliamo sono la loro salvezza. E ci sono delle... Sì, effettivamente mi fa riflettere la domanda del giudice Marshall Carbino, che è un italo-americano andato in Vietnam, è venuto a testimoniare che la frequenza cardiaca di Ciccarelli è a ridosso dell'onestà del suo culo aperto, che non l'ha presa mai in culo. E quindi possiamo appellarci a Quindi eventualmente, questa era una notizia buona, ti posso dare in mia diretta. E poi che dirti? Direi che il progetto autunno-inverno è allettante. Mi ricorda una cosa il comandante Marshall Tenenbaum Bercardino. L'astro della bandiera, quando Ciccarelli era stato messo alla Farnesina, veniva da Chernobyl il materiale? Che io sappia, sì. Ah, ecco perché ha gli occhi rossi. È un po' arrossato. No, si trasforma in urto ogni tanto. E ti diventano gli occhi rossi soltanto, poi gli gonfia quello che a me non mi interessa. Ho capito, è pressione sanguigna. Sì, gli aumenta la pressione sanguigna, gli occhi rossi. E la lingua, solo la lingua gli diventa verde, non so perché. Certo. Ma magari mettilo a dormire. Allora gli do un po' di. Vediamo. Esatto. Mi raccomando. Ora proviamo. Lo vedo un po'. Sta passando un brutto periodo. Però una notizia che voi non sapete sicuramente è che la condizione di scagionamento del signor Ciccarelli è un pagamento extra extra lusso, perché lui va a rientrare nella disabilità di civile di guerra, e quindi sono almeno, si parte da una base di 30.000 euro al mese. Beh, direi che è interessante. È pazzo per le comunità, per gli sbirri, però lui ha 30.000 euro al mese per 12 anni, per 10 anni in tutti insieme. Ciccarelli, mi hanno detto anche che tu hai traduco quello che ha detto, perché io sono il suo medico. E lui ha detto praticamente che vorrebbe arricchirsi un pochettino della cultura culturale della società qua in Sicilia e al sud, se possibile. Vuole vivere un po' nel mondo del vero trasformismo, parliamoci chiaro. D'altronde qua noi in Sicilia ci sappiamo muffare bene, come si suole dire, nel termine giusto. Ma andiamo nel profondo e direttamente del cuore della situazione. Tutto sto bilanciamento cinese sarà di virò, le mie mani diventeranno d'oro. E se vuoi essere attaccato da un remita su questo argomento, evita di affrontare il povero sacerdote dell'esecuzione. Il raccontino può darti soddisfazione adesso, caro Duilio, però vi ricordo che la Torre Eiffel riusciva a colpire una sola barzelletta del moscerino. No, raccontacela tranquillamente. Allora, il moscerino, mi sembra che ha la minchia più grossa di tutti gli insetti. Tu devi pensare che al moscerino gli diventa, pure presente che un moscerino è 2 mm, 3 mm, 1 centimetro e mezzo. Tu devi pensare che il moscerino ha la minchia lunga 5 cm. Sì. Allora, una volta nel Far West si raccontava in un modo, quella moderna è della Torre di Parigi, beccai un moscerino, gli tagliai il pistolino e finalmente mi ficcai a casino. Per questo sono al casinino, capisci? È tutto dietro, c'è la storia, c'è un tutto torna. Tutto torna. Bella ragazzi, state ascoltando Baby Radio in diretta dal Polo. Ci vediamo su Kendale. Yo. Compagni, restiamo uniti. La lotta continua qui su Baby Radio. Da quando ho messo il chiodo dentro l'asse mi sono innamorato di legno. Finalmente ho scoperto qual era la mia ambizione: battere il legno. Mi piace costruire gli asinelli di legno. Mi raccomando, imprese edile Fratelli Calzolari. Siamo nelle vicinanze di via Beroaldo, dove c'è il Cert Pede. Mi raccomando, facciamo legno pregiato, legno massiccio, legno massello. E poi vi offro anche l'acne al bar. Rostagno, ho saputo da fonti dirette, cioè ho saputo, in realtà è una domanda che ti vorrei fare, il tuo rapporto, cioè qual è il rapporto di Rostagno con YouTube? Sappiamo che tu hai un sei specializzato comunque anche di computer. Sì, sul del web, sì, per ma ti devo dire che con poco piano si può arrivare ad avere un controllo di molte telecamere del mondo in diretta su YouTube, però è un argomento che qua in Italia non tratterei mai, non farei mai, perché lo sconsiglio. Non c'è proprio la struttura adatta per farlo a livello di tecnologia. Ci sarebbe la fibra, fanno la microfibra, fanno questo, fanno quello, non servono un cazzo per avere l'evoluzione del web. Sì. Sì, invece già ci sono pronti. Fanno le fibre, pezzo di merda. Sono pronti, hanno già pronti dei pezzi artistici, sono stati considerati così, che serviranno a un controllo del web megagalattico. Però, per esempio, lui presenta il film di Tom Cruise, l'eroe del nuovo mondo di oggi, delle giovani drone. Di ieri, della troia madri loro, sì. Tu l'hai presente quel film dove ci sono quei tre che immaginano, esce il pallino, come cazzo si chiama, se lui lo sbirro che anticipa gli omicidi da questi? Minority Report. Minority Report, esattamente, che l'occhio guardava, la cosa che voglio riferirmi su questo film è che con l'occhio registravano chi eri quando arrivavi, scendevi dalla metropolitana. In realtà è un occhio gigante che serve a controllare il web, che non ci sono azioni di distorsioni nelle telecamere, e se tu dal web puoi guardare la città. Tutte le camere di struttura, per esempio quelle tutte messe in città a Palermo da Cammarata, si potrebbero usare con un buon server nel comune di Palermo e funzionare così. Certo. Rostagno, sempre per stare in argomento rete, quali sono, diciamo, i tuoi canali? Io, i miei canali di ricerca sono di stare tanto lontano da uno psicopatico rompicoglioni che ti inghippa, e sai, ti dirò che a quanto vede è l'amicone di Renzi, che è un psicopatico che usa la tecnologia per fare una specie di nightmare della tecnologia, abbastanza. Poi questo di qua rompe i coglioni, infatti se tu ti vai nelle chat, quelle diciamo dove fanno la webcam le troiette di quest'oggi, sì. Se tu vedi che arrivano sempre fake, questi fake sono lui che ha provato a leggere la struttura del tuo computer. È interessante, vedi, queste cose sono rimasto indietro, non le sapevo. No, vabbè, non è che si devono sapere. Non, cioè, per me una cosa molto particolare, infatti volevo fare questa domanda, sono i captcha, i notifotic, non so se hai mai provato ad ascoltarli, no? Sembrano dei messafotic, hanno tutte queste diciture cifrate. Yan, Li, Shan, Mu, Hou, E, V, P, 4, G. Y, W, 9, S, 6, N, K, D, 5, H, E, V, P, 4, G. Sadi. Y, W, 9, S, 6, N, J, K, D, H, 2, B, N, C, D, G, Y, 3, H, E, M, 8, 9, 10, Z, R, V, 2, 6, T, E, G, Y, 3, E, 8, X, T, D, H, M, B, N, D, Z, H, M, T. Yo, drop this. Se vi servono consulenze informatiche, venite da Dottor Sachs, l'unico che gestisce i computer dei tossicodipendenti. Via Sebastiano Serio, vicino da Mauro. Sono sempre l'amico Mauro, anch'io riparo i computer. Posso fare tutto quello che volete. Se non è anche un paro umano, tagli i capelli. Andate al servizio Dottor Sachs. Santi alieni, tu dici? Guarda, vorrei che me ne parli, cioè vorrei che ci spiegassi, perché comunque, ti ripeto, interessa anche ai nostri compagni, soprattutto chi è in carcere in questo momento, che dovrà affrontare la società, tra virgolette, civile, si potrà imbattere in Fotic, in captcha, come affrontarli, sti cazzi? Tu mi trovi fresco fresco di giornata, che ho appena coltivato il mio ultimo rancore di oggi. Dimmi. E ti inizi a dire: dove sono i morti? Cosa accade quando si muore? Perché si muore? Può essere confortante conoscere la verità sulla morte? What you just listened to was the first part of our exclusive interview with Rostagno. If you'd like to hear more, stay tuned for next week's second part on BBA.